comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Sto qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. When you've done all your running, run to me. I know you love your loving, and when you're done with all your loving, come to me. E lei morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro, morirà sul lavoro. My sweet Louis, sweet Louis, Louis, Louis. Allora ragazzi, prima di affrontare tutta la vicenda Dolce & Gabbana, Elton John incazzato come una biscia perché Dolce e non Gabbana, o forse tutti e due, hanno detto che non gradiscono i figli sintetici, e l'altro dice: io ho due bellissimi bambini che non sono sintetici, mi avete insultato, li avete insultati, non comprerò più un abito di Dolce & Gabbana. E uno potrebbe dire: chi se ne frega, se non fosse che c'è un precedente, no? Se non fosse che c'è un enorme nostro, precedente nostro. Beh sì, nostro, certo, nostro, assolutamente nostro, perché lo si sa, ed è il precedente di Barilla. Qui si sta aprendo una situazione che sembra Barilla 2, perché grandi star internazionali del mondo dello spettacolo, del mondo della moda, del mondo del fracazzo da Velletri, cosa sostengono? Sostengono che Dolce & Gabbana sono due traditori del mondo omosessuale, perché il mondo omosessuale la deve pensare allo stesso modo. Cioè ci deve essere sull'adozione, sul matrimonio, un pensiero unico, cioè favorevoli al matrimonio e favorevoli all'adozione. Se tu prendi distanza, io sono favorevole, per carità, però non considero quelli che non vogliono né il matrimonio né l'adozione dei reazionari, dei bastardi, dei pezzi di merda, soprattutto dei traditori, in particolare se sono gay. È impossibile avere idee diverse. Cioè, se uno sostiene che la famiglia è quella tradizionale, che in fondo i figli vanno cresciuti con la madre e col padre, io non la penso così. Penso che un figlio possa crescere tranquillamente insieme a un gay, a due gay, a tre gay, a cinque gay, a sette gay. Non è questo il punto. Il punto è che non si può dare del fascista, come ha fatto, quello in realtà è Dolce & Gabbana che l'hanno dato a Elton John, ma comunque non si può pensare che tutti gli omosessuali dicano le stesse cose. Uno può essere gay, può essere frocio e sostenere che ci vuole una famiglia e non essere a favore del matrimonio e non essere a favore dell'adozione, e non è che per questo li devono fare due coglioni così. Allora, Barilla disse questa cosa e fu massacrato, poi tornò indietro, si cosparse il capo di cenere, eccetera, eccetera. Perché non fate un bello spot con una famiglia? Ah, bellissimo. No, diciamo che noi abbiamo una cultura vagamente differente. Per noi, in che senso, scusi? Per noi il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. Cioè? La salute, la famiglia, il concetto di famiglia. Cioè non fareste unita, mai uno spot? Il concetto, no, non lo faremo, perché la nostra è una famiglia tradizionale. Per questa e altre frasi Barilla fu crocifisso dall'intero mondo omosessuale. E non solo. Sta succedendo in pratica la stessa cosa. Ti leggo, caro Parenzo, alcune frasi. Alcune frasi. Dolce & Gabbana sveglia, siamo nel 2015, Ricky Martin. Courtney Love, brucerò i vestiti di Dolce & Gabbana. E sti cazzi, uno. Courtney Love. Courtney Love. Elton John, lo sappiamo, avete insultato i miei figli. Addirittura, al contrario, Forza Nuova, il tuo amico Fiore, ha inviato la tessera onoraria a Dolce & Gabbana. Cioè, è incredibile. Vladimir Luxuria qui da noi ha detto che spera che adesso Dolce & Gabbana non cambi i modelli, cioè devono restare i modelli quelli super fighi omosessuali e non mettano Giovanardi come modello. Cioè, Heather Parisi addirittura ha detto che lei è la mamma di due bambini sintetici e dunque è offesa da queste cose. Ma io dico una cosa, sarà stata pure inelegante la battuta, la frase bambini sintetici, ma non è possibile che tutti i gay, tutti i froci la debbano pensare allo stesso modo. Cioè, se uno dice è contro il matrimonio omosessuale e contro l'adozione, diventa un reietto, diventa un è una cosa incredibile. Hai stranamente ma ragione, tanto lo dico preoccupo. Io non lo dico io, no, ma siamo d'accordo, io sono a favore del matrimonio e dell'adozione. Vabbè, ma sono contro questi qua che mi vogliono imporre per forza il pensiero unico dell'adozione e del matrimonio. Battutona di Forchielli che dice: non è che adesso Volta e Gabbana hanno cominciato, senti un po', vediamo un po' se la capisci, perché è in un romagnolo stretto, eh? Tanto non è Dolce Gabbana ma è Volta e Gabbana, e poi mi domando, non è che a Volta e Gabbana adesso stia cominciando a piacere la Tana? Non è che a Volta e Gabbana stia cominciando a piacere la Tana, che poi sarebbe insomma quello che sappiamo. Un grande imprenditore, signor Forchielli. Signor Forchielli, imprenditore. Imprenditore squinzi. Vabbè, Salvini è ormai ovunque, anche al centro di Mineo, al centro degli immigrati di Mineo. Ma se uno organizza una festa, viene Salvini? Non lo so. Cioè, adesso, lo so, ho un addio al celibato, al nubilato. Può darsi. Invito Salvini a un addio al celibato. È andato al centro di Mineo, dove dice che ci sono le villette con l'aria condizionata per gli immigrati. Senti. E poi sono entrato in un mondo parallelo, che è quello del più grande centro di accoglienza di tutta Europa, dove ci sono ad oggi 3.200 persone che hanno colazione, pranzo e cena garantiti. Stanno in villette che erano per i soldati americani, 160 metri quadri, con l'aria condizionata, col giardinetto, con la parabola. C'era gente in giro con lo stereo, col computer, chi giocava a pallone, chi andava in bicicletta. Vabbè, scusa, ma se questi sono rifugiati là e sono arrivati là adesso, con tutto il fatto che è una follia questa roba qua, ma che devono fare? Devono giocare a pallone? Che fanno? Non è che possono, se pregano non va bene perché sono musulmani, giocheranno a pallone ogni tanto, giocano a pallone. Ma abbiamo con noi un grande sostenitore, un grande amico di Matteo Salvini, uno che ha scritto delle cose su Salvini formidabili che nemmeno Miglio poteva scrivere su un leader leghista. Giuliano Ferrara, buonasera. Ma perché mi prendi in giro? Che ho detto di Salvini? Beh, hai detto... Ho detto che non è in grado, a mezzi poveri, mica ho detto niente. Beh, hai detto delle cose tremende, dai. L'uomo delle tre felpe. Ho letto delle cose. Ho detto che fa il gioco delle tre felpe, perché si mette sempre una felpa diversa dall'altra per colpire tutti i segmenti d'opinione pubblica gli interessano, dai, una battuta. Vabbè, battuta, ma non sei tenero con Salvini, pensi che sia un rozzo, buzzurro? Salviniano. Ma che salviniano, ma quando mai tu salviniano? Sono e sono sempre stato un salviniano. Anzi, ti sorprendi del fatto che Berlusconi alla fine abbia scelto non Matteo Renzi ma Matteo Salvini? Ma questo è comprensibile. Giulia, ma al nord, scusa, quelli sono più forti al nord, Berlusconi qualche cosa deve proteggere al nord. Vabbè, ma Renzi però gli dice Berlusconi è più forte al nord, ma è un leader nazionale e internazionale. Sì. Quello Renzi, che c'è il 40% dei voti, diceva: sei il capo, sei il leader, io tratto con te, discuto qualunque cosa mi dicano, e la sinistra era divisa su questo. Invece va con Salvini, non capisco. Cioè non capisci, ormai non ti senti Salvini più. Salvini dice: sei un nonnetto. Sì, è vero, digli non sei più in grado, non sei più leader del centrodestra, sei finito. Ma quello è il masochismo di Berlusconi, lo sai che Berlusconi in realtà con chi lo picchia un po' sul sederino, alla fine... Tu l'hai detto. Io sono troppo amico di Berlusconi per imputargli masochismo. Senti, ma esiste il pensiero unico omosessuale su questa vicenda di Dolce & Gabbana o no? No, lì la cosa è il vissuto, cioè loro dicono: ma come, mio figlio è tanto bello, sorride al mondo, io ho dei buoni sentimenti nei suoi confronti, amo il mio compagno, amo mio figlio, che volete da me? Ma che c'entra? Ma non è quello che è in discussione. Quando Domenico Dolce dice: non mi piace l'idea del bambino sintetico, giudica un comportamento sociale, civile, culturale, un'ideologia, un modo di essere, ma non è che giudica il bambino di Elton John, cioè dicendo non lo vuole ridurre a tessuto. Ma il bambino diventerà papa, diventerà come Mozart, comporrà, farà, sarà felice, sarà... Io gli auguro tutto il bene possibile. Che c'è? Una volta che sono nati, una volta che arrivano in questo mondo, sono parte di noi, Il problema è come? Che quel metodo, quel meccanismo, quel comportamento in vista di quel tipo di educazione di vita può piacere o può non piacere, a me non piace. Però scusami un attimo, ma tu hai già comprato un capo di Dolce & Gabbana, ormai dovresti vestire solo. No, io salto napoletano e non cambi, detto, non cambi. C'è qualcuno addirittura in America, star eccetera eccetera, che vogliono bruciare i vestiti di Dolce & Gabbana. Mi vogliono un po' esagerare. Comunque la storia di Barilla, hai fatto bene evocarla, ma è una cosa pazzesca, cioè se uno dice una cosa che non funziona dal punto di vista del pensiero corrente, non può più vendere le sue medie. No, questo è pazzesco. Questo è pazzesco. Ma questo, gli americani sono, no, questo devo dire che è pazzesco. Ma perché Barilla che doveva dire? Si chiama Mulino Bianco, la ditta sua. Sì, vabbè, quello poi dire? Si è cosparso capo di cedra, ha chiamato un omosessuale, ha chiamato un omosessuale a capo di un dipartimento, eccetera, eccetera. Ha fatto una mezza rivoluzione per il cedimento è totale, la rotta è totale. La rotta può essere anche di fronte al Danè. No, ma perché tu al Danè? Come la rotta del popolo? Aspetta. No, perché c'era un famoso quadro di Cagli. Che si chiamava La Rotta del Po e venne soprannominato nella Roma maliziosa. Qui siamo altro che la zanzara, qui siamo a livelli altissimi. Però scusa Giuliano, io voglio capire una cosa. Altissimi, la rotta del popò, adesso mi fa pensare ad altre cose, cioè la rotta del di dietro. Sì. Sai, si sta parlando sempre di omosessuali, scusami se te lo dico. Va bene. Però sentiamo. Io dico una cosa, ma l'espressione bambini sintetici è un po' brutta, cioè dire tutti quelli che nascono con sì, l'espressione è brutta, ma insomma non è che tutti devono parlare come è scritto in cielo, alcuni parlano come mangiano. E quindi Domenico Dolce si è espresso in modo un po' così. Insomma, io bambini sintetici non l'avrei mai detto, ma insomma non c'entra, però il concetto è molto chiaro e lui aveva diritto di esprimerlo, dai. Che cazzo di conduttore sei? Allora, intanto Scalfarotto, che è anche sottosegretario. Chi, scusami? Signor Scalfarotto, che è anche sottosegretario Calfarotto. Di questo governo, nonché omosessuale, dice: bel colpo per Dolce & Gabbana. Hanno perso Elton John e mezza Hollywood, ma in Senato vedremo il senatore Giovanardi con delle mise audacissime. Questo anche perché l'altra settimana da noi, quando è scoppiata la vicenda di Dolce & Gabbana, Luxuria aveva detto spero che non cambino almeno i modelli Dolce & Gabbana, cioè invece di quei muscolosi là col petto, no, senza peli, tutti ben, no, piazzati, spero che non arrivi Giovanardi. Però vorrei far notare a Scalfarotto una cosa, che in realtà Giovanardi è alleato suo, cioè è alleato suo al governo, è senatore dell'NCD, cioè per cui può pure sbeffeggiare Giovanardi, però alleato di Giovanardi è Scalfarotto fino a prova contraria, magari poi lo disprezza, per carità. Vabbè, ma io voglio capire da Giuliano Ferrara se secondo te questa roba del boicottaggio ha un senso oppure, cioè, capisco lui non è d'accordo, quello è evidente, ma può avere una ripercussione dal punto di vista economico. Barilla perse un sacco di, all'inizio pare che perse un sacco di mercato in America, un po' di mercato lo perse. Sì, è la sostituzione del mercato e del denaro, in questo caso veramente, alle idee, alla libertà di pensare, di dire, di esprimersi. Dovrebbe essere una cosa che allarma tutti i pensatori liberali che in questo momento stanno lì sulla Bologna-Padova, strada in diretta. Sono due cose che non capisco, le strade in diretta e l'odio per Giovanardi. Giovanardi è bravissimo, anche tu lo sfotti sempre. No, io non lo sfotto. È un bravo parlamentare, sì, conservatore, ma perché? Ma stai scherzando, lo sfotto. Io lo adoro Giovanardi, cioè Giovanardi per me, ma non solo dal punto di vista radiofonico, lo adoro perché è uno che fa battaglia, che è uno che tiene il punto, che sta lì nonostante viene insultato da tutti. Ma sei uno dei pochi libertari che adorano quelli che la pensano in modo diverso. Ma sì, io sono a favore del matrimonio, io sono a favore di tutto, dell'aborto, del matrimonio, dell'adozione, dopodiché è un paese con l'idea, il governo di Giovanardi al 100%, ma no, è ma un paese del califfo, diciamo. Ma no, pure quello di Ferrara, pure quello di Ferrara, secondo te? Io adoro Giuliano Ferrara. Però pensi che Ferrara, capo del governo, ci riduca al califfato, cioè senza aborto. Giulia, cioè lui pensa così, la pensa è un così. Califfo dialettico, un califfo dialettico. Allora il papà Esatto, perché il califfato? Io sono cristiano. Sì, vabbè, il papato, ecco, sì, un papato un po'. Sì, un papato. La teocrazia papale. Scusa, ma si può essere, scusa, Giuliano, si può essere oggi contro l'aborto? Dai, su, è una cosa che io non riesco ancora a capire come no, tu puoi. Adesso no, non mi provocare, quello è un argomento molto serio. Ma appunto, non si può essere contro l'aborto, dai, su. Ma è una cosa. Non è che non si può essere, non si può non essere. Ma no, ma l'aborto è una cosa normale, ormai la persona che. Le persone normale, sì. Ma non è una amicizia. Le persone oggi fanno all'amore liberamente, come tu sai, essendo tu. Beh, come sì, dire, non è un contraccettivo. Fanno all'amore liberamente. Dopodiché succede che non usano il preservativo. Mettano il preservativo. Ma la Chiesa non vuole. La Chiesa non vuole il preservativo, per esempio. Ma non è vero. Ma come non è vero? Di tutto. Ma chi è la Chiesa per giudicare? Ma la Chiesa non. Comunque, perché il Papa. Mentre il palloncino non rompono le palle ai bambini non nati. Che ho capito, ma se il palloncino non lo vogliono mettere, che fanno? Devono per forza fare questo bambino? Pippe. Come pippe? Le pippe dici? Invece del pallo. O le pippe o il palloncino? Pippe, molte pippe. Ma se uno ama e fa un bambino, poi il bambino deve nascere. Ma ho capito, ma se uno non ama e vuole trombare, l'altro giorno c'è stata pippe, pippe. Ma come pippe? Ma è una cosa. Poi altro. Ma non è il califfo, questo qua. Pornografia. Bellissimo, bellissimo. Ma no, dai. Indicano altri mezzi. Se uno fa un bambino, deve nascere il bambino. Ma questo lo sanno tutti. Ma, non, ma c'è l'aborto. Ma c'è l'aborto legalizzato. L'aborto, sai che vuol dire? Vuol dire che devi entrare dentro. Frantumarlo e poi aspirarlo, ma stai scherzando? Ma ho capito, c'è una legge. C'ha due occhi, ma c'ha i cromosomi. Ma non mi far fare il radicale. Oppure la patatina, ma sei matto. Ma non si possono uccidere i bambini. Ma ho capito, noi abbiamo detto aborto, divorzio, obiezioni di coscienza e speranza. Il divorzio. Ma come pure, il divorzio. Sei pure sei contrario pure. Non c'è più il divorzio, c'è il ripudio. Vogliono fare il divorzio immediato. Ma certo, il divorzio breve. Dice, ti divorzio. Come in antico si diceva, ti ripudio. Ma scusa, ti ripudio, cioè, ripudio. Voglio dire, e lei Giuliano. O lui devono uscire di casa e basta. Il bambino guarda, dice oh, divorzio. Ma non ho capito, qual è il problema del divorzio breve? Una cosa fantastica il divorzio breve. Ma il divorzio dovrebbe essere abolito in tutto il mondo. Ma come abolito? Il contrario del matrimonio non è il divorzio, è il non matrimonio. Non si sposino. E una volta che ti caso sposano a fare se poi dopo devono divorziare? Ma scusa Giuliano, uno ci ripensa, non ti voglio più bene, ti odio, che devo fare? Invece di ammazzarti, divorzio. Invece di ammazzarmi devi chiamare Giovanardi. guarda che sei diventato incredibile, ma cioè o sei sempre stato così? Cioè io è un'unica. Io sono d'accordo con te sul 90% delle cose, ma su questa roba qui non riesco a trovare. Lo so, è vero, tra l'altro il bello della vita è che non. Ma divento pazzo, come fai a essere contrario al divorzio breve? Che è un grande conquista di civiltà. Ma non breve, né breve né lungo, proprio contrario al divorzio in assoluto. E anche l'aborto va cancellato. Certo, pippe, le pippe, vabbè, l'alternativa alle pippe, uno può ridursi alle pippe, non è ma le pippe fanno male poi, secondo i medici. Fanno diventare ciechi, sì, però insomma, pazzesco, uno si mette gli occhiali. Ma cosa pazzesca, dai. Qualcuno ha detto, adesso una cosa te la trovo, qui sei d'accordo con Salvini, i figli, l'altro giorno da noi ha detto che un bambino che cresce, figli. Un bambino che cresce in una famiglia, diciamo, omosessuale, che sia singolo, che sia così, no, nasce, questa è una cretinata. Nasce con un handicap. È una cretinata assoluta. Appunto, l'ho appena detto che è una nemmeno su questo sei d'accordo. Ho detto che il figlio di Elton John può diventare come Mozart, può diventare come Stravinsky, può comporre. Speriamo non diventi come Salvini, il figlio di Elton John. Ecco, bravo. Ma no, che cazzata. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Senti, ti volevo chiedere di Travaglio che non ci vuole stare, altri che non ci vogliono stare sulla soluzione di Berlusconi, ma è troppo tardi. Che devo fare? No, troppo tardi. Troppo tardi, c'hai da fare, te c'hai sempre da fare. No, io c'ho. Non c'è più da fare, c'è più da fare. Ciao. Pippe, molte pippe. Pretty soon now. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Allora ragazzi, vogliamo ricordare Urbi e Torbi al popolo della radio, al popolo che è in collegamento con noi con ogni mezzo possibile immaginabile, con lo streaming, con la macchina, a casa mentre cucinate, mentre siete a letto con i vostri amanti, con i vostri mariti, perché c'è gente che mentre fa l'amore, come si dice, ascolta la Zanzara, oppure quando scopa, insomma. Sì, come no, pieno di gente che fa così. Veramente. Sì, vogliamo ricordare gli insegnamenti di Giuliano Ferrara. Allora, l'insegnamento principe di Giuliano Ferrara è questo. Aspettate, fermi dalla regia. Cioè, se a voi capita di scopare col vostro partner di fare l'amore, di di abbracciarvi e anche di fare quella cosa che si chiama sesso, non dovete sbagliare, cioè o usate tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili, e questo Ferrara non è contrario, Giulianone, non è contrario, scendete in corsa dal tram, insomma. Come invece i capi del Vaticano, no? Come invece i capi, bisogna sempre ricordarla questa cosa qua, che i capi assoluti del Vaticano non hanno mai detto una parola ufficialmente a favore della contraccezione, anzi, no, per forza un cazzo, scusami se uso questa parola, che però è appropriata. Sono laico, lo sai, però. Allora, ma io dico, vuoi chiedere al Vaticano? Non è che il Vaticano dovrebbe fare la grande rivoluzione, il Papa Francesco dovrebbe presentarsi, adesso dice anche le barzellette, no? Dice anche le barzellette, dovrebbe presentarsi sul balcone di Piazza San Pietro sventolando un preservativo. Ecco, sventolando così un preservativo. Così. Questo non credo. Ecco, ma questo non credo che succederà, dice, anch'io non credo, però sarebbe l'unica vera grande rivoluzione. Non è che tutte queste robe dico, non dico, quegli altri dicono, quegli altri non dicono, e qui la conferenza episcopale italiana, la gente non capisce nulla. Il Papa si presenta sul balcone di Piazza San Pietro, lì col preservativo sventolante. Usate questo in Africa, dove impera l'AIDS, usate questo. Capisco che non succederà, però è un sogno questo non credo. Però attenzione, l'insegnamento di Giuliano Ferrara, che è il Papa 2, diciamo, il Papa 2.0, è questo. Ragazzi, o usate il condom oppure pippe, molte pippe. Però ragazzi, veramente ha detto così, non l'abbiamo estrapolato noi, ha detto così. Sì. Cioè, o usate i contraccettivi, cioè, l'alternativa è questa: se uno rimane incinta, sono cazzi vostri, vi tenete i bambini. Pragmatismo di Ferrara. Secondo me, però, in Iran non la pensano così, cioè, no. In Iran, secondo me, non la pensano. Cioè, secondo me sono più avanzati in Iran. Io dico solo questo, credo. Vladimir Luxuria da noi la settimana scorsa, siamo stati i primi ad afferrare al volo questa vicenda di Dolce and Gabbana, ha detto che adesso Giovanardi e Labinetti diventeranno testimonial di Dolce e Gabbana. Mi auguro una cosa, hai presente quel modello strabono con gli occhi azzurri e quel costume bianco? Spero che non lo cambino con Carlo Giovanardi adesso, perché non vorrei ipotizzare un futuro in cui mi vedo al posto di Monica Bellucci stilare Paola Binetti. Oh, buon anno. Ah, buon anno, ha detto piuttosto che. Allora, immaginate un'isola, no? Un'isola deserta. Ah, è tornato rimangono solo in due. Ma era già tornato la settimana scorsa. Rimangono solo in due quest'isola. Rimangono solo in due. Buon anno and Luxuria. Allora tu dici, cosa succede? A un certo punto scatterà qualche ormone, no? Cioè, alla fine uno dei due dice, vabbè, che dobbiamo fare qui? Siamo gli unici due rimasti. Ma Luxuria non si arrende. In un'isola, così, c'è cioè un naufragio, cioè un viaggio, magari vi trovate insieme, naufragio, tu e buon anno, la stirpe umana è finita, morta. Mi accoppio con un gabbiano, mi accoppio con un pellicano. E poi, signori, sentite cosa vuole fare David Parenzo con i soldi di Balotelli. Se avesse i soldi di Balotelli, lo voglio ricordare, se avesse i soldi di Balotelli, li spenderebbe come? Non so, uno pensa, che ne so, fare un regalo a mia figlia. Quello sicuro. Regalare, quello certo, aspetta, la prima cosa che ti è venuta in mente è un'altra. Andare a mignotte, prendersi cura di se stessi, spa, viaggi, no. Costruire un campo rom attrezzato. Se avessi i soldi di Balotelli, costruirei un campo rom attrezzato. And now the headlines news channel 3. E adesso i titoli del TG3. I grandi appalti TAV, Expo e Mose nell'inchiesta che ha portato in carcere il super manager Ettore Incalza. Nelle carte anche il figlio di Lupi che replica, mai chiesto favori. Il governo presenta il suo emendamento alla legge anticorruzione. La soddisfazione del presidente del Senato Grasso, i 5 Stelle, subito la legge in aula. Primi effetti degli sgravi fiscali sull'occupazione. Secondo l'INPS, da febbraio 76.000 imprese pronte ad assumere a tempo indeterminato. Il rebus alleanze nel centrodestra. In Veneto Tosi deciso a correre da solo. 6 parlamentari pronti a seguirlo. Salvini, Forza Italia, governerà con noi. Alberto Stasi massacrò la fidanzata Chiara perché per lui era diventata pericolosa. Queste le motivazioni della condanna in appello a 16 anni. Domani si vota in Israele, nei sondaggi in testa la coalizione di centrosinistra. Netanyahu gioca le sue ultime carte, con me mai uno Stato palestinese. È la stella del Paris Saint-Germain, Ibrahimovic insulta l'arbitro e la Francia, poi si scusa. Marine Le Pen però lo attacca, se non gli piace il nostro paese se ne vada. Sono sicuro che Parenzo riesce a dare ragione anche a Zlatan Ibrahimovic, per questa roba qua. Senza dubbio, ma è semplicissimo anche. Cioè, perché, scusami, senza roba di dubbio. Alzando un po' la se voce. Se ne vada, sì. Vediamo se la Le Pen, visto che la Le Pen già più volte ha criticato la squadra, il Paris Saint-Germain, sì, perché dice che ci sarebbero troppi immigrati, faccia lei col nonno lì, col padre, col fascistone del padre, vada lei a giocare a calcio con i talenti di puro sangue francese. Ma cosa perché c'entra? Mica ha detto questo a Le Pen. No, in passato. Ma scusa, anche. Ma se qualcuno, se qualche giocatore che viene, che ne so, dal Burkina Faso, dalla Svezia, o dagli Stati Uniti, venisse in Italia, no? Cioè venisse in Italia. Dopo un po' dice questo paese di merda, due volte. Questo paese di merda. Che bisogna fare? Quindi, bisogna stendere i tappeti rossi? Che bisogna fare? Il calcio ha altre logiche, dice, ma vattene da questo paese, no? Ma lo dicesse ai tifosi del Paris Saint-Germain, quello è un bravo giocatore. Il calcio ha altre logiche rispetto alla politica. Quella ha provato ad azzannarsi, come uno straniero. Ma che c'entra? Quello ha detto se l'è presa detto, con l'arbitro e poi ha perso la trebisonda, ha detto una cazzata, è una logica appunto del calcio, va affrontata con la logica del calcio, ma non con la logica della politica, che è un'altra roba. Ma quello è andato oltre la logica del calcio, ha detto è un paese di merda, il Paris Saint-Germain non si merita questo paese di merda. Il paese di merda sarebbe quello governato dalla Le Pen. Ma no, la Le Pen non ha mai governato in vita sua. Ma di che stai parlando? Sarebbe un brutto paese. Ma questo secondo te, lascialo decidere ai francesi, quello che è bene o quello che è male. No, che ne so, sì. Vuoi pure decidere per conto dei francesi che la Le Pen non va bene? Ma ci mancherebbe altro. A proposito, secondo te la tessera onoraria di Forza Nuova, che è arrivata da Dolce & Gabbana, perché sarà arrivato un plico, no? Secondo te che succede materialmente? Cioè arriva questo... L'hanno presa, l'hanno buttata nel bagno, questa busta con scritto bagno, Forza Nuova, segreteria generale, partito molto di destra, diciamo. Avrà pensato che è una roba, sai lo sforzo che uno fa, forza, sai lo sforzo, quello di Guerre Stellari, del film Guerre Stellari. Vabbè, adesso magari l'hanno aperto, ci Dolce Gabbana, sarà arrivato nelle mani di Dolce Gabbana. Ma si è lavato le mani, ma si è aperto, si è disinfettato poi, altro che... Ma dai, su! Ma sicuro. Marta da Pavia, Marta, vai, Marta. Ma io penso che la buttade di Dolce Gabbana sia tale, cioè un giudizio molto superficiale, non so perché lo abbiano dato, forse sono stilisti. Ma che cosa? Che giudizio? Sui figli sul sintetici? Sul discorso dei figli, sì. Sì, allora? E quindi ritengo che in Italia comunque, io sono assolutamente liberal, favorevole ai matrimoni gay, eccetera, però per quanto riguarda i bambini sono un po' più circostanziata, cioè ritengo che l'Italia sia ancora indietro e sia difficile dare dei giudizi così un po' semplicistici. Quando lei, Cruciani, ha detto all'inizio io sono favorevole al fatto che i figli possono avere 6-7, cos'è che ha detto all'inizio, genitori gay, eccetera. No, bisogna andarci un po' più cauti, ecco. No, non ho capito, perché scusa. Ho capito, Marta, ma io sono favorevole all'adozione gay. Qual è il problema? Non ho capito. Ma io non sono così favorevole. Tu non sei favorevole, io sono favorevole, però non pensare che io voglio distruggere i bambini o li voglio far crescere in un ambiente assurdo, eccetera. Cruciani, e allora qual è il punto? Sì. Siamo sullo stesso linea d'onda. Ritengo che comunque in Italia sia ancora presto, perché già i genitori devono essere ancora educati a questo tipo di nuovo trend, figuriamoci i bambini che sono razzisti. I bambini sono razzisti. Che dici te? Ma stai dicendo una sequela di cazzate, cioè, che sono inaudite. I bambini sono razzisti. Ma chi te l'ha detto? E mia figlia non è affatto razzista. Ma di che parli? Ma tua figlia? Sono razzisti. Ma chi te l'ha detto? A scuola, se non hai, ma non è vero che sono razzisti. Ma non è vero. Cioè, lo possono essere come gli adulti. Ma non ho capito. Ma che c'entra questo? Tu dici che i bambini possono trattare male o possono deridere altri bambini che crescono con i gay? Non ho capito. Per questo dici? Può, certo, cioè possono essere anche vittime di discriminazioni. Guarda che possono essere vittime di discriminazioni perché hanno la panza grossa, perché sono, che ne so, perché magari hanno l'apparecchio ai denti o perché hanno un occhio strano. L'apparecchio ai denti non ci sono mille motivi. Ci sono mille motivi per cui possono mille essere motivi. Derisi, guarda. L'ultimo dei motivi è perché magari non hanno i due genitori o perché c'hanno due dello stesso sesso o perché c'hanno uno solo dello stesso sesso. Parere personale. E vabbè, non parere personale, cioè non, parere, non è che ci sono studi di sociologia avanzati da questo punto di vista. Io penso che sia così e sono convinto che sia così. E certamente un modo per combattere queste cose non è quello di dire no, allora non facciamo niente perché i bimbi ne possono soffrire. Quello, ci sono fior quello, di esempi di bambini cresciuti tranquillamente in un ambiente omosessuale e di bambini invece cresciuti male in un ambiente di eterosessuali. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Consiglio di Giuliano Ferrara. Pippe, molte pippe. Forse intendeva pippe. No, pippe. Quelle che pippe. Le pippe, sai, a un certo punto l'ha pure Holmes, detto, masturbazione, no? Bisogna masturbarsi, o fare i figli o masturbarsi, oppure non si può sbagliare, se uno rimane incinta, se deve becca il figlio, comunque vada, aborto, no, cancellare, questo è Giuliano Ferrara, che te devo dire? Crozza, che canta Berlusconi, stupendo. Intercettazione con Tarantini, sentite. Pronto? Presidente, come va? Ma guarda, sono stanco morto, l'agenda è piena di impegni. Oh. Guarda, ieri ho visto Sarkozy, domani mattina presto devo incontrare la Merkel, guarda. Ah, oh, vabbè, allora sì, se devi vedere la Merkel rimandiamo. Sì, guarda, sono stanco. Vabbè. Perché? Cosa ci avevi eventualmente tu? Niente, c'era quella mia amica, la mista marocchina italiana, molto molto carina. Ma chi, tipo l'Anna? Esatto, sì. Ma guarda, io sono stanco. Tra l'altro domani forse ho una riunione con Barroso. Ma peccato, perché c'era pure la brasiliana. Brasiliana chi? L'amica di Paola. Eh? L'amica di Paola, presidente. Ma chi, quella che si veste da suora? Esatto. Ma guarda, io sono stanco. Tra l'altro io domani devo vedere anche il Papa al Quirinale, forse. Peccato, perché mo che ci penso, c'era pure la Giuli. La Giuli? Eh sì. La Giuli chi? Quella con la faccia da bambina. Scusa, fammi un attimo ricapitolare. Ci sarebbero la brasiliana, sì, la marocchina mista italiana, sì, la Paola, che si veste la suora, e la Giuli con la faccia da bambina? Eh sì, ma lei deve vedere il Papa. Ma io me ne frego del Papa. Allora facciamo alle 9:15, mi raccomando, puntuali. L'ho trovata stupenda, l'ho trovata meravigliosa. In realtà non succedeva questo, sì, il contrario, o almeno così sembra dalle intercettazioni, no? Che a un certo punto gli diceva che era stanco, eccetera. Vabbè, andiamo a Piacenza, Roberto, vai. Ciao Cruciani. Dimmi Roberto, dimmi. Senti, guarda, prima di tutto mi dispiace per il nostro amico Parenzo che non ce l'ho con lui, perché secondo me attualmente Balotelli, cioè lui si sputtana tutti i soldi, non so se avrà i soldi per fargli, per fargli fare il campo rom, e poi sarei anche contento. Beh, con potesse, i soldi di Balotelli, che penso che qualche campo rom si riesce a fare, eh? Ma va, se sputate, o se no quelli che se li sputano ancora di più. Poi se comunque fa il campo rom, questo non per dare conto, io non ce l'ho con i rom, magari gli dà anche un so quadri di valore, oro eccetera, probabilmente ci vado a rubare io in casa d'oro. Ma chi, Balotelli, diciamo? Eh sì, magari, che ne so, fa il campo rom. Campo rom con arredamento super lusso. No, ma io ho fatto una, ho detto un'altra cosa. Ho detto. No, ma assolutamente, che ho detto contento. Che con quella disponibilità economica, come battuto ovviamente, ma la verità qual è? Che a Venezia, quando era sindaco Cacciari, ad esempio, che in un comune adesso? Vicino a Venezia, stiamo parlando, hanno costruito delle villette. Ma stiamo partendo per da una tua, come dire, da una roba che hai detto, sembra una follia, ma non c'è no? bisogno di spiegare nulla. Tu hai detto il primo pensiero che hai avuto, matta, poi dopo che il primo pensiero che hai avuto sui soldi di Balotelli è quello che farei beneficenza, un campo Roma attrezzato. Ma ovviamente prenderei qualcosa per la mia famiglia, ma poi farei per beneficenza la creazione attrezzata di un campo. Campo molto no, pensa te come siamo. Vabbè, Roberto, che vuoi dire ancora? No, scusami, e poi volevo dirti: vabbè, tu comunque, Cruciani, probabilmente apprezzeresti che lui ti portasse a Mignotte insieme a lui, perché poi Balotelli va a Mignotte, lo sai, no? Ma io non lo so che va a Mignotte, non lo so, non mi interessa. Dici che va a Mignotte, che ne sa? Che... tutti. Che vabbè, ne so, ho capito, ma a me quello, tu, a me quello che dice la gente, no? Con Balotelli? Ma nemmeno ho pagato. Cioè, io se ci vado da solo, che vado con Balotelli, così mi fanno le foto fuori dai locali. Sei impazzito, Roberto? Sputtani ancora di più di quello che sei. No, sputtanato sarei tu, non sono affatto sputtanato. Sì, che se ne frega, io magari sono sputtanato, che se ne frega. No, ma non è quello il punto. Scusami, tu sei talmente aperto tutto che sei, certo, vabbè, assolutamente, che cazzo te ne frega, scusa, no, lo sputtanamento è una cosa, essere aperti e raccontare le proprie cose è un'altra, insomma, sono, no, due cose, sono due cose molto diverse, ma no, comunque Roberto, sputtanato tu lo sei. Ma da che? Da che cosa? Da chi? No, ma chi la dice? Quando parli sei un po' sputtanato, dai. Ma da chi? Di che cosa parli? Ma non so nemmeno di che dici. Mi dici una cosa, ti posso dare ragione, ma non dici nulla. No, ti dico, poi ti dico, invece ho chiamato per il discorso dei bambini, eccetera. In primo sono d'accordo con te che i bambini piccoli non sono assolutamente razzisti. Poi? Probabilmente. E poi non sono d'accordo, secondo la mia opinione, che i bambini, quella è sempre la tua opinione, comunque, ma assolutamente, infatti, infatti stai parlando diverse, tu poi, assolutamente, poi tu sì, mi per dici, un fatto molto semplice, tua. Quasi la palissiano, che stai parlando tu, essendo è dunque la tua opinione, vabbè, dai, forza. No, allora la mia opinione è questo, che secondo me io sono contrario alla a che le persone, non ce le ho con i gay, logicamente, con i gay, che anche loro comunque si prostituiscono, anche se non lo dicono, ma tutti i gay ciò, si prostituiscono, tutti i gay, anche i gay, molti, ma non è vero, ma ci sarà lo stesso tasso di prostituzione tra i gay che tra gli eterosessuali, ci saranno quelli che vogliono fare i soldi prostituendosi, gay o non gay, dai. Ma tu con i gay ci parli a volte, no? Ok, allora ti dico, io non te lo dico, te lo ripeto, non ce l'ho contro di loro, però loro a volte dovrebbero fare un passo indietro, ammettere che anche loro essere più aperti nei confronti di chi non è d'accordo con loro. Ma non quello fa parte di un altro discorso che riguarda non si può ragionare per categorie, però... Va bene, Massimiliano Pescara, va bene, Roberto, abbiamo dato Massimiliano Pescara, vai. Ciao, buonasera, dimmi. Niente, io per prima, per l'intervento di Ferrara riguardo l'aborto, sì. E niente, io pensavo che la cosa da cautelare sia più che altro chi lo esegue l'aborto. Non ho capito, la cosa da cautelare, che vuol dire la cosa da cautelare? Sì, da aiutare chi lo esegue, determinate, se uno fa un aborto c'è una causa. E il discorso è che tante volte... Non uno fa un aborto, non ho capito, se uno fa un aborto... Cioè, chi lo fa? Chi lo fa cosa? L'aborto, la donna, che è una ragazza, che non in qualsiasi situazione succede. No, ma scusa, Massimiliano, che causa c'è? Ma io non ho capito. Ma quale causa, scusa? Non ho nel capito. Senso, una ragazza, una diciottenne, un rapporto sentimentale e tutto, arriva ad essere incinta. Deve fare l'aborto, non deve fare l'aborto. Cioè, non è il discorso di farlo o non farlo. E si riesce a seguire questa situazione oggi in Italia, perché qua sembra un paese medio africano, stiamo pensando all'aborto. Tu hai capito di che sta parlando questo qua? Totalmente nulla, però allora, posso intuire. L'aborto in Italia per fortuna si può fare fino a si tot mesi. Fare. Ma si segue chi lo fa sto aborto? Ma si segue, che vuol dire? Si segue. E chi lo esegue? La donna che lo esegue, quando lo fa? È assistita, se dici prendi tu. Una donna matura va bene, ma se come succede al 60, ragazzi, 60, a 18 anni per ragazze, in Italia funziona una cosa molto semplice, che è la maggiore età. Cioè, per cui di che stiamo parlando? Tu sei dopo 18 anni puoi abortire come ti pare, a parte che anche prima, ma insomma, puoi abortire come ti pare. Cioè, questa è la cosa molto semplice. Anzi, la cosa grave è che l'aborto è consentito in Italia, ma essendoci molti medici abortisti, in alcuni posti si fa anche difficoltà, cioè a ottenere una cosa che è un diritto fondamentalmente, invece per altri non è un problema. Siamo ad alti livelli qua, I've been down, take my word, my weary Italia chiama la zanzara 0246520246524010. Ripeto 0246524010. Pareggio è invidioso di Fidel Castro che c'ha l'uccello usurato, perché lui ce l'ha piccolo piccolo e senza usura. Sai come dice il detto? Che se vai a letto col culo che prude e ti svegli col dito che puzza, vuol dire che le cose bisogna farle subito, e ai rom bisognerebbe che ci pensassimo subito. Avarenzo, se ti fai sodomizzare dai tuoi amici zingari, stacci attento che ti prendi sicuramente lo scolo. Io sono Mauro da Feltri, io e mio amico Lazar lottiamo fino che sparisci questa liga di merda insieme al loro asino di Salvini, razzisti, fascisti di merda. A Grusani, sti zingari te l'hanno svaligiata la cassa o non te l'hanno svaligiata? E vabbè dai, speriamo che te la svaligino presto, no? È meglio che altre cose, ciao. Oh, ho fatto una scurreggia, faccio Vladimir Lussuria. Avrei tanto voglia di dare una bella leccata ai piedi della santa anche. Una bella calzina tutta sudatina, una minigonna. Daniela, dai! Devo dire che siamo veramente al top. Beh, amici miei! Amici miei! È con noi Alessandro Cecchi Paone. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Come stai? Bene, anche se non si finisce mai di restare stupiti in questo paese. Beh, scusa Alessandro, però mi dicevi... Sei più dolce o più gabbana? Mi dicevi prima che hai fatto un gesto oggi rivoluzionario, cioè nel tuo guardaroba ci sono diversi indumenti, anzi solamente forse un indumento, qualche mutanda di... Dolce and Gabbana, che cosa hai fatto con queste mutande? Sì, mi dispiace dover parlare dello specifico di quell'indumento, ma sono stati immediatamente buttati via e non li regalerò mai più a nessuno. Sono il simbolo su cui loro hanno costruito un impero anche economicamente importante, ma soprattutto un simbolo di riconoscimento. Immagino che non tutti si occupino di questo, ma la storia del comune del costume e della moda ci dice che la mutanda di Dolce Gabbana era un simbolo di riconoscimento e anche di orgoglio gay. Addirittura. Certo, anzi addirittura. Per cui non ho capito, tu quante ne avevi? 5, 6, 7, quante ne avevi di queste? Ma diciamo, ognuno c'ha quelle che ha, diciamo, una metà di quelle che avevo erano Dolce Gabbana. Andare in palestra, sì, perché certo. Era un segnale di come dire, di adesione. Le hai ammucchiate sì, sì. Bidone. Esatto. Beh, anche con una certa perdita economica, diciamo, no? Sì, anche perché non sono certo a buon mercato. Non sono a buon però, mercato, insomma, siccome no. Io aderisco al boycott Dolce Gabbana, poi bisogna farlo sul serio, non sono solo allora, parole. Secondo te vanno boicottati? Ecco, io voglio capire perché vanno boicottati, perché qualcuno dice, in fin dei conti, che cosa, anch'io lo dico, hanno, al di là della questione dei bambini sintetici, hanno espresso il loro pensiero. Non è che tutti quanti gli omosessuali devono pensare allo stesso modo sull'adozione, su altre cose, no? Assolutamente d'accordo, il problema è che loro hanno costruito sulla sensibilità gay e sul rilancio della sensibilità gay e sull'orgoglio della sensibilità gay un impero economico. Cioè hanno tradito il marchio? Hanno tradito i clienti, hanno tradito tutti coloro che si sono sentiti riconosciuti perché loro hanno praticamente fatto propaganda a se stessi parlando della loro vita privata. Utilizzato i gay e poi adesso li hanno traditi. Li hanno traditi in maniera veramente orribile perché li hanno schiaffeggiati dicendo voi siete cittadini di serie B che non potete avere una vera famiglia che è quella tradizionale, che non potete avere figli perché i figli vanno fatti soltanto in maniera naturale. Dopo averli per 30 anni convinti che i loro capi erano i capi dell'orgoglio, della riscossa e della dignità gay. No, ma infatti questo è interessante. Tu dici sostanzialmente che la loro fortuna, anche se poi non è che solamente la fortuna costruita sull'omosessualità, però tu invece sei convinto che tutta la loro fortuna dipenda dal fatto di essersi presentati come una coppia gay, come una coppia glamour, come una coppia, diciamo, aperta da questo punto di vista, di aver avuto un grande successo presso gli omosessuali, o no? Guarda, non ti posso dire, sempre nella storia del costume e della moda, qui non siamo facendo facendo pubblicità contro o a favore. No, prima no. La mutanda di Calvin Klein aveva, sì, questo, sì, aveva questo tipo di significato. Quando tu vedevi uno con la mutanda di Calvin Klein, era frocio, palestra, era, era uno che voleva dire lo sono e ne sono anche orgoglioso perché sono all'avanguardia, perché sono poi loro non sono riusciti a fare l'operazione di sostituzione, sì, dicendo lo siamo. Hanno fatto, ti ricordi, una copertina in cui hanno fatto coming out, sì, ufficiale, sì. Beh, prima insomma, ancora di quella out dei bambini. Ah, sì, prima, sì, ancora tu dici prima ancora io mi ricordo una copertina, forse di Venerdì di Repubblica, potrei sbagliare, in cui loro fecero scalpore dicendo siamo gay, siamo stati lungamente insieme, adesso siamo soci ed amici, insomma, come dire, era una bandiera. Tu non puoi poi pigliare la bandiera e stracciarla dicendo abbiamo scherzato, la pensiamo esattamente al contrario. Cioè, allora tu pensi sostanzialmente che tutti questi qua, Elton John per esempio, che si è incazzato come una biscia, ha perfettamente ragione, cioè si è incazzato... ha perfettamente ragione perché, come dire, erano considerati degli amici che facevano con i loro mezzi potentissimi della pubblicità e della comunicazione di essere Dolce & Gabbana, tu dici, il fatto stesso assolutamente sì, e loro improvvisamente hanno fatto un incredibile giro di valzer, che è veramente un tradimento del mercato che si vendica. Ma è anche un tradimento della causa gay, cioè l'altro giorno Vladimir Luxuria qui da noi ha detto beh, ci saranno molti commessi omosessuali di Dolce & Gabbana nel mondo, che saranno magari con figli, con famiglie eccetera, che magari hanno le palle che girano, no? Assolutamente sì, ma il punto sai qual è? Ma tu, i gay che hai sentito oggi, per esempio adesso tu sei fidanzato in questo periodo? No, come sai ci siamo detti, sono singolo, ma non vorrei magari, magari nel frattempo sei fidanzato. No, l'avresti saputo, te l'avrei detto. Ma sono tutti fuori della grazia di Dio, perché ricordati che in questo paese abbiamo pochissimi punti di riferimento. Il Tolzone è un baronetto sposato dalla regina Elisabetta. Noi avevamo questa coppia importante della moda milanese, gli unici che avevano fatto... Non è che sono gli unici simboli gay in Italia, Dolce & Gabbana. Militanti sì, io non, quello che hanno fatto loro, copertine su copertine di coppia gay, le stesse cose che hanno detto può ripensarci, però scusa. Beh, a parte che qualcuno sostiene, per esempio Vani di Fer, che quell'intervista in realtà non è molto diversa da quella di qualche anno prima, che in realtà alcune cose le hanno sempre pensate. Invece tu ci stai dicendo un'altra cosa, che loro prima hanno costruito tutta la loro immagine nell'aderire ai principi gay. Assolutamente sì, cioè, principi così gay, al matrimonio, all'adozione. Così come Valentino è legato a un'immagine straordinaria della donna in rosso Valentino, l'immagine Dolce & Gabbana è legata alla mutanda dei gay di tutto il mondo occidentale, felici di essere. Ma dire che però il matrimonio chi se ne frega, dire che i bambini sintetici non vanno bene, cosiddetti sintetici non vanno bene, dire che perché è in contraddizione con non ho capito se uno non proclama viva il matrimonio, viva l'adozione, è un reietto? No, qui si tratta di dire essere gay con orgoglio e con rivendicazione di pari diritti. Nel momento in cui tu dici la famiglia non la puoi fare, i figli non li puoi fare, vuol dire sì, che bello essere gay, vai in palestra e ti curi il corpo e magari fai qualche orgia la sera, però poi basta, non bisogna fare nient'altro che porti all'eguaglianza potenziale dei diritti e della possibilità di scelta. Questo non è accettabile. Parenzo, che dici tu? Ma no, ma io dico che un paio di mutande ben disegnate. Qualcuno mi sta dicendo che le mutande Calvin Klein in realtà non sono un simbolo gay. Erano prima. È pieno di eterosessuali che ce l'hanno. Io penso che due omosessuali come loro possono cambiare opinione o avere un'idea diversa da quella di Cecchi Paone e disegnare delle belle mutande. O ma loro mutande, non sono dei filosofi o degli opinionisti, hanno costruito un impero miliardario sull'immagine dell'orgoglio ma, gay. Non è che hanno detto che non sono più gay, che i gay vanno bruciati. Appunto. Hanno semplicemente detto che da gay, secondo loro, che la famiglia tradizionale è quella, diciamo, maschio femmina, che i figli alla fine gli piacerebbe averli, però alla fine non si può andare contro, non si può avere tutto, eccetera eccetera, o no? Benissimo, e noi non compreremo mai più i loro oggetti, che per noi erano oggetti, cioè, di secondo te due simboli non possono che essere a favore del matrimonio gay? I simboli che sono stati loro fino ad oggi potranno pure dire di essere stati mal interpretati per 30 anni, benissimo, hanno fatto chiarezza, d'ora in avanti basta. Ho capito, tu dici fino adesso, anche se qualcuno non ha approfondito abbastanza, anche se non gli è stato chiesto abbastanza, sono stati considerati comunque un simbolo per i diritti omosessuali, nei testi di storia del costume e della moda. Quindi o non abbiamo capito niente per 30 anni, li ringraziamo di aver scoperto che sostanzialmente, perché ce ne sono gay di destra convinti che gay non equivale a etero e non si possono avere gli stessi diritti e doveri, oppure hanno fatto un incredibile tradimento del loro mercato di riferimento. Allora, c'è una notizia che sarà minore pure, ma pare che il direttore della rivista dei due stilisti, che si chiama Swide, cioè la rivista si chiama Swide, si sia dimesso perché ha detto che le loro opinioni sono incompatibili con la mia coscienza. Siete due bastarde, nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltare, tanto per cominciare. Allora, io voglio capire da Cecchi Paone una cosa. Non capisco perché, secondo Cecchi Paone, Dolce Gabbana hanno tradito i gay. Ancora non l'ho capito bene, perché non capisco. Lui è uno libertario, cioè, però sui gay, secondo me, sei diventato pazzesco, Alessandro. Perché possibile mai che due omosessuali come Dolce Gabbana non possano avere idee diverse dalle tue? Non capisco. Certo che possono averle, però io devo combatterle, perché qui poi non si tratta solo di omosessuali, loro hanno offeso gravemente tutti gli eterosessuali che non possono avere dei figli e che possono avere dei figli grazie alla scienza medica, grazie alla fecondazione assistita. Mi senti? Sì, pronto? Che c'è, Vittorio? Che c'è? Che succede? No, si sento. No, Vittorio, c'è Sgarbi. No, finisco solo per dire, insomma, che qui c'è anche un attacco durissimo a tutti gli eterosessuali che hanno dei figli grazie alla fecondazione assistita e si sono sentiti dire che fanno dei figli chimici, dei figli finti, dei figli di serie B. Quindi io sono arrabbiato non soltanto sul punto di vista gay, sono arrabbiato anche dal punto di vista di un approccio. No, ma ho capito, ma perché tutti quanti perché devono essere a favore per forza del matrimonio e dell'adozione? Non riesco a capire. No, per forza, siccome stanno vincendo, perché hanno fatto degli Italia è l'unico paese zimbello del mondo liberale occidentale che non ha nessun diritto dal punto di vista dei diritti civili, parlano soltanto dell'omosessualità, parlano della fecondazione assistita, del testamento biologico. Ma tu stai dicendo un'altra cosa, che loro hanno tradito i gay. Nello specifico il motivo del boicottaggio di gente come Elton John. Nell'altro aspetto più generale, che riguarda soprattutto gli etero, vorrebbero che gli etero che non possono avere figli naturalmente rinunzino. Non si vede non perché. Possono avere idee diverse dagli altri, diciamo, dai leader, certo, del movimento, certo, omosessuale. Possono, ma no. Ripeto, negli ultimi 30 anni evidentemente non abbiamo capito nulla e pensavamo che fossero personaggi, come dire, di spicchio all'avanguardia. Sono invece dei retrogradi. Vittorio, sì. Tu che dici? Ma non vorrei litigare con Cecchi Paone, ma ritengo che la battaglia per i diritti degli omosessuali abbia avuto fra i grandi testimoni proprio Dolce e Gabbana, che nel nome e nel legame hanno testimoniato due cose: la libertà dell'amore e la libertà dal matrimonio, che è uno dei veri diritti che la società dovrebbe ottenere in difesa dell'individuo. Io sono contro qualunque matrimonio, che è un vincolo come la famiglia, è una strettoia per creare mostri. Allora la libertà dal matrimonio prescinde dal fatto che si sia o meno per il matrimonio omosessuale. Io voglio liberare gli eterosessuali dal matrimonio, cosa che non sarà molto facile visto che c'è la Chiesa Cattolica che sostiene quella posizione, ma chi ha il vantaggio di poter vivere fuori dal rito borghese del matrimonio e lo cerca, fa qualcosa che è una deflagrazione di una libertà che corrisponde in questo caso non a un diritto come la salute, come lo studio, come qualunque la libertà di essere liberi, ma è un contratto. Tant'è vero che i più grandi testimoni del mondo omosessuale, che sono Pasolini e Vattimo, per dire, non si sposerebbero mai, sono contro ogni forma di matrimonio anche. Quindi io non ritengo che sia un diritto ma un contratto. Quanto all'adozione, vale per gli eterosessuali e per gli omosessuali, l'adozione è qualcosa che molto spesso ha a che fare col capriccio di una coppia che ha bisogno di realizzare il suo destino con figli che vengono adottati come se fossero cagnolini. Me lo dà nero con gli occhi blu e non capisco perché uno che non ha il destino di avere un figlio debba adottarlo come un giocattolo per consolare la sua aspirazione di essere una coppia, magari lo fa crescere, lo parlo benissimo. Io credo che sia lecito che i due gay abbiano un figlio, quando uno, rimanendo vedovo, si trova un figlio o vedova e poi decide che la sua vita successiva sia con un uomo o con una donna, ma avendo già il figlio, senza bisogno di andarlo a prendere al mercato dell'usato dei figli, che sono la necessità di consolare una condizione. Tu dici che Elton John, per esempio, Elton John con l'individuo prima di ogni cosa, ma io non voglio litigare, capisco che ognuno la possa pensare come vuole, ma Dolce & Gabbana hanno il diritto di dire: viviamo senza matrimonio, nella nostra libertà sessuale, non vogliamo figli e nessuno deve dirgli siete retrogradi, perché sono molto più avanti di quelli che vogliono il matrimonio, come la coppietta che va invitata dal prefetto il 2 giugno, Giovanni e consorte. Io non voglio alcuna regola che stabilisca che i contratti, che sono soltanto per l'utilità delle persone, che si possono comunque fare sul piano notarile, diventino dei diritti che ledono la mia libertà di individuo. Io sono contro ogni matrimonio. Scusami, se posso liberare l'eterosessuale dal matrimonio, figurati quelli che non hanno il matrimonio. Posso testimoniare che questa posizione di Vittorio è coerente, però vorrei aggiungere che la democrazia liberale prevede la scelta individuale libera. Io non dico che bisogna per forza sposarsi o per forza adottare, dico che non bisogna vietare a nessuno. Ho capito, ma tu li hai chiamato retrogradi questi due semplicemente perché hanno detto di essere a favore contro ogni matrimonio, perché loro sono contro ogni matrimonio, non è che sono solo contro il matrimonio gay, sono contro il matrimonio e forse pure contro l'adozione. Benissimo, allora io voglio ricordargli che l'intero mondo democratico liberale prevede la possibilità di scegliere. Qui noi non possiamo scegliere, questo li rende retrogradi. Lui ha ragione, ma il problema è che la scelta riguarda anche il minore, cioè io devo trovarmi di essere nato senza averlo scelto, e questo vale per chiunque di noi, ma di essere scelto al mercatino per avere due padri invece che due madri. Cioè io credo che il diritto di un ragazzo che nasce di avere un padre e una madre vada tenuto in considerazione rispetto al destino di trovarsi a 15 anni con un papà e un papà. Ma per esempio Elton John, scusami Vittorio, Elton John che ha fatto nascere il figlio in quel modo, con la provetta, eccetera. Che pensi? Un orrore? Pensi che sia una cosa orribile secondo te? Tu, no, non è orribile che Elton John vive una condizione che quella che ha descritto di libertà democratiche, che invece sono un momento in cui la nostra civiltà, perdendo i suoi principi di identità, ha scelto la mancanza di principi. Allora è chiaro che in una libertà assoluta qualunque cosa è lecita, ma tu sei una civiltà, la civiltà che noi siamo è una civiltà cristiana, che infatti ha legittimato l'orrido matrimonio eterosessuale. Però dico che questo voglio dire un'altra civiltà, che è quella che non è né cattolica né cristiana né altro, è qualcosa che forse varrà in tutto il mondo democratico, ma abbiamo larghe aree del mondo come quello musulmano che sta conquistandoci, che la vede in maniera completamente opposta. Allora non è che una posizione di per sé è più bella che un'altra perché è più democratica. Ma poi forse Sgarbi i figli non l'ha mai voluti, figuriamoci se li fa. No, io li ho avuti, i miei non li ha voluti. No, intendo dire che quando sono nati io ho ritenuto fosse giusto riconoscere. Dopo un po' di tempo, pensato che la paternità fosse un mio diritto. Io non, quando c'è, per esempio, Tiberio Timperi, quelli che vogliono avere i bambini per se stessi, io le chiamo quote di maternità. I figli sono delle madri, le madri devono averli, i padri non c'entrano un cazzo. Due uomini che vogliono un figlio gli rubano la madre. Allora, ma che vuol dire due uomini che vogliono un figlio? Due uomini che vogliono un figlio, secondo te, sono dei mostri? No, non parlavo dei mostri, dicevo che il diritto naturale mi mette nella condizione di pensare che io sono figlio di mia madre e parzialmente di mio padre. Sì. Quindi mia madre la voglio. Il rapporto con mia madre, che è un rapporto interno, interiore, di pancia, lo vengo a perdere quando vengo adottato, e naturalmente posso avere due uomini straordinari che mi vogliono moltissimo bene. Però l'elemento fondamentale, che è quello per cui io non ho mai voluto figli, è che ritengo che il padre sia un incidente. Ma un po' come Pannella che ha messo incinta quella là e poi esattamente una visione abbastanza pannelliana, questo una visione pannelliana, diciamo. Anche tu, anche a te è capitato di mettere incinta una senza saperlo? A me? Cioè Pannella, per esempio, ha messo incinta una? No, sempre. Io sono contro la paternità della volontà e non posso essere contro la paternità del cazzo. Ma la prima volta che ti hanno detto che la tua reazione qual è stata? La prima volta che ti hanno detto che hai messo incinta una? La donna, che era la Patrizia Brenner, madre di mio figlio. Sì, come no. Sono felice che tu abbia un figlio perché renderà piena la tua vita. Io ho detto, quindi fallo. Lei ha capito che fossi d'accordo con lo sposarla, e ha capito male. E ogni altra donna che è venuta da me incinta, io sono contro il divorzio e contro l'aborto. Se uno fa le cose di sposarsi, peggio per lui, nessuno l'ha costruito. Vabbè, contro il divorzio, contro... addirittura no. Contro l'aborto pure. Tu adesso Giuseppe, se tu neghi la libertà di scelta all'individuo nella gestione liberale, finisci a questi livelli. No, ma basta che non si sposi. Bisogna perché... poter scegliere. Sì, ma basta non sposarsi, ma... devi sposarsi in modo politico. Vabbè, ma anche dopo è un'inculata sposarsi, va bene, giusto per gli omosessuali forse, perché non capisco perché uno si deve sposare, stai con una donna quando io non capisco perché bisogna imporre una visione, bisogna che no, il singolo responsabile no. Possa scegliere sì, anche però, dopo no, in quanto contratto non sei costretto a contrarlo. Cioè tu hai una donna che ami. Ho capito, ma donna, uno poi sbaglia, poi uno sbaglia e c'è il divorzio per fortuna. Non puoi essere contro il divorzio. Adesso prima è venuto Giuliano Ferrara da noi, lo sai alla Ferrara. Sei contro il matrimonio per forza. Il divorzio, che è la derivazione di un matrimonio fatto in maniera irresponsabile. No, però scusami, allora prima Ferrara, poi adesso non si sente più niente. Prima Ferrara è venuto da noi a dire che l'alternativa al lui ha detto i due ragazzi, due quello che è, usano il preservativo oppure si fanno le pippe. Perché quando uno rimane quello è un estremismo. Io quando uno rimane incinta. No, ti faccio l'esempio mio. La donna che stava con me prendeva la pillola, ha smesso di prenderla, non me l'ha detto. Perché tu sai, altra cosa che non sa bene Cecchi Paone, che mentre uno non può decidere essere padre, ma se tu vuoi esserlo e la tua donna non vuole, tu non lo diventi, tu puoi diventare padre perché lei te lo impone. La donna ha molto più potere reale perché decide di essere madre o di non esserlo. Tu vuoi fare il padre. Una volta mi capitò di leggere questa cosa di uno che voleva essere padre, lei ha abortito, l'ha mandato a fare il culo. Di fatto la forza ce l'ha la donna. Nell'adozione questo non si pone ovviamente, però si pone il limite che tu dai al figlio di avere, non avere una madre, che è quella da cui egli viene generato. Ma tu ancora li potresti fare i figli, sì, in teoria. Sì. Ma dici a me o a Cecchi Paone? A te, no, a Cecchi. Guarda, ti voglio che su questo punto credo di sì. Sì, il sovrintendente di Capodimonte vorrebbe dirti una cosa, si chiama Bona. Io penso che buongiorno, buonasera, io sovrintendente. L'attenzione verso il matrimonio omosessuale è il desiderio di riprodurre consumisticamente la famiglia per poter fare il gioco della famiglia, poter comprare i giocattoli, le cose. È una questione semplicemente consumista, secondo me. Ah, è solo consumismo, ecco. Dici te, no, solo consumismo. Questi sono snobismi di gente ricca, potente e famosa. Io parlo delle persone che devono avere delle normali piccole libertà basilari. Piantatela di fare questi discorsi da snob. Capito, Vittorio? Snobismi, dillo al sovrintendente. Ho un piccolo stipendio, non molto alto, insomma. Comunque, in realtà, le posizioni di... Io sono stato molto... Però, Vittorio, dobbiamo chiudere. Nel corso degli anni... Cecchi Paone, nella parte seconda della sua vita, questa... ha assunto un atteggiamento ideologico che sembra dover registrare più dei principi che non la propria vita. Ha buttato tutte le domande, tutte le mutande di Dolce Gabbana. Ha buttato tutte le mutande di Dolce Gabbana che ha. Però questa è una forma di ira furibonda. Vittorio, però ti voglio chiedere una cosa: ma tu quanti figli hai in tutto? Secondo te? Io ne ho riconosciuti. No, ufficialmente sì, ma gli altri quanti? Secondo te quanti? Secondo te più o meno? No, ma non credo io, perché se appena avessero saputo che io ero il padre venivano da me. Sì, ma più secondo me che non lo sa. No, ma sicuramente non lo sanno, perché altrimenti sarebbero... Non lo sanno, può 30, essere, no. 30. Ma che 30? Ma dai, per quanto la mia attività sia stata molto intensa... 20, una ventina. Comunque ci saranno i figli, e tutti quelli che venissero da me a dirmi che sono miei figli motivatamente, io li riconoscerei. Va bene, a presto, ciao ragazzi, ciao, pubblicità. Ciao. Lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Allora, ovviamente non abbiamo detto una parola fino adesso su tutta questa vicenda che coinvolge il ministro Lupi, ma semplicemente perché che dobbiamo commentare? C'è un'accusa da parte di un imprenditore coinvolto in alcune vicende, che è in carcere, il quale dice che il ministro Lupi, al ministro Lupi sono state regalate dei Rolex. Credo un vestito a Lupi e il Rolex e lavori al figlio. Cioè il figlio di Lupi avrebbe lavorato per questo imprenditore in alcuni lavori in cui il padre evidentemente aveva messo lo zampino. Lui risponde che non ha mai chiesto favori per il figlio, che però lavorò effettivamente dal cognato di questo Perotti. cosa che bisognerebbe evitare, cosa che bisognerebbe evitare. Se tuo padre è ministro delle infrastrutture, tu fai non so che cosa, credo che faccia l'ingegnere il figlio, o lavorare in ingegneria, così credo che dovrebbe evitare di lavorare per aziende che magari prendono dei lavori che prendono dei lavori dalla regione Lombardia, eccetera eccetera. Almeno per il momento, tanto il padre poi magari non farà più il ministro delle infrastrutture, però vabbè, vedremo come andrà avanti sta cosa. Sergio da Napoli, vai. Buonasera Luciani, sono il suo ammiratore Sergio Gioia, mi sente? Sì, dimmi, dimmi Sergio. Allora, vai. Giuseppe Luciani, io volevo dire una cosa rapidamente, 3 secondi. Io purtroppo abito in questo buco di fondoschiena che è Napoli. Beh no, buco di fondoschiena. Non abito a Milano, se abitasse a Milano io mi apposterei molto democraticamente, con massimo rispetto nei suoi confronti, con un cannocchiale a 200 metri di distanza da lei soltanto per guardarla, perché per me lei è l'ideale di uomo. Vabbè, adesso non esageriamo. Ma la verità, io sono molto sincero, le cose con lei mi vengono spontanee perché lei è, questa è la verità. Vabbè, e lei questo lo mi sa. Sta pià per culo. Dai, cioè... Ma la verità, io sono innamorato di lei metafisicamente, grazie. Metafisicamente. Allora, tornando a noi. Che vuol dire metafisicamente? Professor Cruciani, io dico questo. Professor. Allora, lo dico anche a Parenzi, grande Parenzo, grande, ma lei è grandissimo, senso fisso. Allora, io vorrei parlare un attimo, 3 secondi di. Parenzo, io voglio vorrei farti dire una cosa: se tu sussurri un qualcosa alla radio, no, non si capisce una mazza, ma non si capisce no, una mazza. Di non urlare troppo perché no, il ma non si capisce una mazza se tu sussurri vabbè, delle cose così. Ma negli ultimi tempi sussurri delle cose, ma non si capisce una mazza per Antonio. Non sovrapporre, ma lascia perdere, ma non si capisce una mazza parola. Allora stai zitto Sergio, vai. Professor Cruciani, guardi, io ma non c'è nessun allora, professore, non mi fare incazzare adesso, che vuoi dire? Io così la percepisco modestamente, grazie. Giuseppe, ma questa è una macchietta, chi è questo? Vabbè, no, Giuseppe, tu mi adorizzi, grazie, molto gentile, sono molto onorato, profondamente privilegiato. Fra poco ti mando via, No, per quanto riguarda le rapine che fanno, non si sente niente. It was a beautiful day, sun beat down, I heard the radio on, I was driving, trees went by. Ma lo sai, David, lo sai che l'ex leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, pare si voglia candidare a sindaco di Milano? L'aveva già detto di Milano, una volta. Sì, adesso l'ha riannunciato. Ma è vero o no? Di Pietro? Buonasera. Buonasera. Allora si candida a sindaco? Allora, statemi bene a sentire, caro Crescenzo e caro Barani. Ho chiesto al mio amico Beppe Grillo se mi dà una mano, anche perché ho fatto tutta una sparata, ho detto che Renzi coniuga i verbi solo al futuro, ma almeno quelle li coniuga. Allora, che cosa ho deciso? Che hai deciso? Che hai deciso, Anto? Che cosa ho deciso? Vado a fare il sindaco di Milano con tutta la gente che ho arrestato. Ma io che devo fare in questo momento? Vado a fare il sindaco di Milano. Cioè dici con tutta la gente, con tutta la gente che è arrestato, come fai a farsi? Quando sono andato via da Milano, caro Crescenzo, non c'era più nessuno a Milano, per strada, non camminava più nessuno, avevano tutto paura. Adesso che mi hanno trombato da tutto, ho dovuto ricominciare a fare queste cose. Statemi bene a sentire, altrimenti che devo fare? No, e ti abbiamo ascoltato bene. Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? C'è un'altra cosa che sconvolge il mondo della politica, caro Parenzo, ed è come dire, la vittoria di Brunetta. Cioè, se ho Brunetta, dentro Forza Italia si è rafforzato assai negli ultimi tempi, perché la sua linea anti-renziana, cioè, ha prevalso su quel signor Verdini. Allora, io vorrei capire da Brunetta come vive questa nuova situazione in cui tutto quello che lui pensava alla fine, insomma, si è verificato. E il trionfatore Brunetta, caro Cruciani, è normale, sai, sempre indovinato io, il più bello, il più bravo, il più buono, il più intelligente di tutti, sai, anche Parenzo l'ho inventato io. Beh, adesso l'ha inventato, ma non è vero, ma non è vero. No, l'ho inventato io. Ma non è vero, ma non ha inventato niente. Ma non è vero, beh, ve lo dico, l'ho inventato io quando ero ministro. Perché la gente non capiva, andava spiegato, Cruciani e Parenzo, la gente mette insieme e fa un... Ma perché non viene mai la zanzara, Brunetta? Guardi, perché voi altri siete spaziosi e mi tocca poi chiedere di scusarvi, come ho fatto con la Boldrini. La Boldrini, sì, la Boldrini, come ha fatto? Ti scusi, chi ha vinto io, e così. Va vabbè, ho capito. Ma c'è Cicchito? No, anche, però tu sai che dentro. No, ecco, prima di Cicchito, no, che vogliamo Cicchito interpellare, c'è anche un'altra cosa. Dentro Forza Italia non si capisce bene la posizione di Bondi, che ormai è mezzo fuori, manda avanti la moglie, che poi si, come dire, risente Berlusconi e torna dentro Forza Italia. Ma io vorrei capire da Bondi qual è la situazione familiare, innanzitutto. Cioè, stanno ancora insieme, primo con la moglie, che la ripeti, penso di sì. Ma lui è dentro Forza Italia, è fuori, la moglie è dentro, è fuori. Che succede? I rapporti con Berlusconi, Bondi, qual è la situazione? Caro Parenzo, io inviterei a occuparvi delle cose di coppia, caro Cruciani Parenzo, sì, le vostre cose di coppia, perché mi sembra che voi abbiate, lei e il dottor Parenzo, dei problemi coniugali molto più grandi. Ma sono molto più gravi, non esageriamo. Molto più gravi di chi? Scusi, Bondi. No, perché voi siete le persone cattive, siete. Ma come cattive? Cattive, no, avete siamo fatto piangere anche il dottore, avete fatto piangere. Abbiamo fatto piangere il dottore, no, dottor Berlusconi. Sono anni che ascolto le vostre cose radiofoniche. E devo dire che avete in diverse occasioni parlato male del dottor Berlusconi. Ma non è Beh, no, ogni tanto. Ma è vergognarci adesso. Ma abbiamo parlato. Lei e quell'altro. Abbiamo, come dire, abbiamo espresso le nostre opinioni. Lei è una persona liberale, dovrebbe apprezzare. Oppure... appunto, le vostre opinioni sono sbagliate. Beh, come dire, sono sbagliate, questo non è che lo può decidere lei, Bondi. Comunque, vabbè, io volevo capire la sua il suo rapporto con Berlusconi, che è a zero ormai. Guardi, è più o meno come il vostro rapporto. Ecco, uno fa finta e l'altro pure. Ecco, che sembrate un po' una coppia, tipo, ecco. Staglio olio, ecco. Ormai dice Cruciani Parenzo, per dire lo staglio olio, il Gianni Pinotto, ecco, il Cruciani Parenzo. Ecco. Vabbè, ho capito, Bondi. Vabbè, io vorrei capire però un'altra cosa, sempre andando a rovistare a Montecitorio, di passaggio c'è anche il tuo amico Cicchito Parenzo, perché Cicchito certo. è avvelenato con Salvini, ormai il suo vero nemico è Salvini. Allora, vogliamo chiedere una cosa, ma lei in Veneto per chi fa il tifo Cicchito? Cioè, spera che vinca chi? Cioè, lei spera che vinca la Moretti, Tosi, Salvini, ci sono tre candidati ormai, Cicchito. Innanzitutto devo dire che con quel Salvini lì c'è poco a star sereni, quindi come dire Berenti. Che senso c'è poco a star sereni, scusi? No, e poi mi pare... Cioè è razzista, è fascista... Ma no, cosa? No, ma no cosa? No, nel senso che qui, guarda, poi mi pare che il dibattito politico si è proprio abbassato a livello di un Parenzo qualsiasi. Perché ma come si permette? Il primo ma... che arriva comincia, dice parolacce, eccetera, e così via... E finisce che qui tra una roba e l'altra finirà che andiamo a sbattere. Allora io già l'ho detto, non è che glielo ho mandato a dire a chi? Io poi anche in questa trasmissione c'è un livello che ve lo la raccomando, guarda. Ma adesso perché adesso viene qua a attaccare noi là, perché poi uno che fa anche dei distinguo, perché a Cruciani è, come dire, riconosco anche insomma un certo approccio, un certo tipo, mentre quell'altro lì, quel Parenzo, è una roba a metà tra l'asilo infantile e il manicomio criminale, guarda. Manicomio criminale. Va bene, era il incredibilmente il vicepresidente della Camera, Simone Baldelli. Ciao Simone, buona grazie. Ciao, grazie. Buonasera, ciao, a ciao, tutti. Caro, ciao. Ciao Simone. Allora, dove andiamo? Alfredo, Milano, vai! Alfredo? Oh, dai, forza! Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Vai, dimmi. Una cosa meravigliosa. Sgarbi, io lo amavo già da Sgarbi Quotidiani e devo dire che il concetto di Paone è stato meraviglioso. Avevo in mente una visione futura, visto che si vogliono invadere quelli dell'Indie. Una cosa, ma tu con che stai? Con l'auricolare come? Stai col viva voce? Come stai, maledetto? Guarda, mi tolgo maledetto. Subito. Maledetto, dai, poverino. Ma ti voglio ammazzare, ti voglio strozzare. Ma maledetto, ma come fai a dire maledetto cazzo a uno, poveretto? Maledetto. Allora, ascolta bene, una visione incredibile. Arriva l'ISIS in Italia, diventiamo tutti musulmani, ci obbligano a andare tutti quanti in moschea. Io vado in moschea tranquillamente perché io sono cristiano, quindi tra Allah, Yahweh e Dio, la stessa persona, quindi che me frega a me, faccio crescere la barba, vado in moschea. Mia moglie, che è cristiana, mette il velo, d'altronde la Madonna, il velo, tutti quanti vanno in chiesa, vanno a pregare davanti alla statua della Madonna. Vabbè, mi spieghi, mi spieghi. Del delirio, cerca di spiegarmi bene che cosa vuol dire, che fra poco mi incazzo, tra auricolare che non funziona, altre cose, dimmi. Vai tranquillo. Praticamente arrivano, io divento musulmano, mia moglie mette il velo, e i comunisti, tipo proprio quelli convinti che vogliono qui gli extracomunitari con i barconi eccetera, ma di cosa dovranno andare anche loro in moschea a pregare, dovranno andare in moschea a pregare. Ma da che zona chiama lei? Da quella vicino alla tua alla tua sinagoga a Parenzo, da Padova. Sì, ma da Padova, sì. Si è fatto il cicchetti, si è fatto lo spritz. Alfredo, allora, io voglio capire una cosa. In maniera molto sintetica, che cosa vuoi dire? Voglio dire che a furia di fare i buonisti e volerli qui per forza, e guai se si fermano i barconi, allora? Arriveranno, e come nei paesi del nord Europa, in Inghilterra ad esempio, quando si arriverà a una saturazione musulmana, imporranno la Sharia. Quindi io mi vedo già un'immagine di questo tipo. I comunisti che devono andare in moschea a pregare lo stesso, anche se non ci credono, ci devono andare solo. Va bene, ma al di là di queste due cose futuriste, l'ISIS che arriva, poi allora? Ma questa è la cosa bella, che dopo tutti quelli che li hanno voluti e che sono liberali, libertari, eccetera, eccetera, dovranno essere sottomessi più di adesso. Cruciani, ti prego, ma sei fissato, devi farti curare, porta pazienza, dai, no. Io ti voglio bene, ma devi farti curare. Tu hai bisogno di uno psicoterapeuta, dammi detta, no? Allora ragazzi, non vi siete resi conto che nonostante non si sentisse poi benissimo il collegamento telefonico, ma succede alla radio, l'autore delle imitazioni di prima, cioè Di Pietro, Cicchitto, che è quella che riesce forse meglio, Bondi pure non è male, eccetera eccetera, è il vicepresidente della Camera, che si chiama Simone Badè. Vediamo un po' se il collegamento è più degno. Simone? Speriamo proprio di sì. Mamma mia, ogni volta. No, ma fammi adesso. Caro Cruciani, bisogna essere sempre sereni, tranquilli, le persone per bene. Ecco, quando si è così tranquilli. Anche a me mi aveva detto, stai sereno, ti facciamo fare il Presidente della Repubblica. E invece che è successo? Sto sereno, sto sereno, mica tanto. Cioè, tra lei, Prodi, tra lei e Letta, voglia stare sereni, no? C'è poco da star sereni. I rapporti con Putin come vanno? Anche lei è amico di Putin, amico strettissimo di Putin. Cioè, suo amico di tutti. Quello è vero, quello è vero. Star tranquillo, sereno. Ma dicono sempre, maggiore. Scusi, però dicono sempre che lei sia più cattivo di quello, certo, che uno immagina. Cioè, nel senso, uno la vede come un personaggio così, invece poi è di una cattiveria. Vendicativo, no? Io sono molto più cattivo di quello che uno pensa che io non sia. Che uno dice quello è Bonaccione, anzi in realtà sembra Bonaccione, in realtà è cattivo. Ecco, io sono molto più cattivo. Vabbè, il vicepresidente della Camera, come avete capito, è un grande imitatore. La persona che si incazza di più, chi è? Nessuno. Sì, qualcuno si incazza. La Boldrini, Tremonti, per esempio, forse. Mi hai pregato di non farla. Ma adesso voglio dire, sei vicepresidente della Camera, d'accordo? Per carità, a lei gliela fai o no? No, su quella c'è un conflitto di interessi. Anzi, devo dire che abbiamo fatto l'8 marzo alla Camera una cosa bellissima con Gabriella Germani, che è un'imitatrice professionista che tutti voi conoscerete, e abbiamo fatto un bellissimo No, quello lo so, finito, quello lo so, però voglio dire, lei, la sua frase preferita della Boldrini, che tu puoi tranquillamente imitare, qual è? State buoni, però, state buoni, per piacere. State buoni, per piacere. Ricorda un po' lo state buoni se state potete. Buoni se potete. Sì. E quando riprendeva, onorevole buon anno, ma stia fermo, stia calmo, onorevole buon anno. Onorevole buon anno l'abbiamo esportato, diciamo. L'avete esportato, non c'è più. E invece sentiamo Brunetta, vediamo come risponde la Boldrini a Brunetta. Aspetta un attimo, ti faccio sentire Brunetta alla Camera e poi sentiamo la risposta della Boldrini. Ha chiesto di parlare il deputato Brunetta, ne ha facoltà. Allora? Presidente, si scusi, si scusi, si scusi, si scusi, si scusi. lei deve scusarsi. Però secondo me la tua imitazione migliore resta quella di Cicchitto, secondo me. Sarà perché per me Cicchitto sarà perché top, sei romano, perché tu sei romano, sì, eh. No, che dici? Sì, forse. Perché Parenzo è stato sovente insultato da Cicchitto. Sì, è vero. Sì, guarda, vabbè, quell'altro cretino di Parenzo, guarda, perché una volta, e questa è una roba che pochi sanno, Cicchitto mi è venuto e mi ha detto: sì, guarda, ieri per sbaglio, perché per poco non pigliavo il tuo amico Parenzo, io che mi retavo, guarda, di senta ragione. Perché non so quale trasmissione, sì, e poi sì, è cominciato a saltare su tutti i divanetti e è scappato via, guarda. Va bene, allora, Baldelli, noi siamo diventati amicissimi con Cicchitto, amicissimi. Sì, adesso sono amici, succede. È nato l'amore. Ma perché Baldelli, perché Cicchitto è diventato un po' anti-berlusconiano, anti-salviniano, soprattutto. Anti-salviniano, dunque hanno trovato un terreno. Parenzo lo ha perdonato. Esatto. Sì. Comunque Baldelli ha scritto pure un libro, pensa te, cose incredibili, che in realtà non è un libro, ma è una raccolta di suoi disegni, perché oltre che fare l'imitatore è uno dei pochi che avrà un futuro dopo la camera, esatto, le imitazioni, esatto, ma anche i disegni, c'è un novello, non so, Crancic, Forattini, insomma, quello che volete. Il libro è Stai sereno, mica tanto, e lo potete comprare, credo, su internet, non so dove, no? Sì, si compra nei principali bookstore, l'editore è You Can Print, e poi in oltre 4.000 librerie in Italia si può ordinare e in 24 ore. Che marca, pure la marchetta al vicepresidente della Camera, della Camera, capito? Vicepresidente della Camera, con tutto sto stipendio, pure i libri, pure i soldi per i libri, ma chi te li mette sti soldi con lo stipendio che pigliate? Con 12,90 euro lo regali a Parenzo. Parenzo, che è un po' più tirchio, con 4,99 euro ti regala l'ebook. Va bene. Così... ciao Simone, ciao. Ciao. Un abbraccio, ciao, grazie. Ciao, caro. Allora, Giovanni da Carrara, vai Giovanni. Ciao. Dimmi. Allora, volevo dirti, a proposito di Carrara, come si dice qui dalle mie parti, sì, l'aborto ma riuscito è lui. In che senso? Nel senso che un aborto ma riuscito. Chi? Ferrara, un aborto ma riuscito. Sì. Primo, secondo. Ma perché? Non ho capito, ma perché? Non c'è primo, secondo, ma che vuol dire? No, primo, secondo, poi dicevo un'altra cosa, Cruciani, stai calmo. Sì. Che è un aborto ma riuscito male, doveva essere un aborto, era meglio se sua mamma abortiva. Era meglio se non, non veniva in vita Giuliano Ferrara, bene. Ma che cos'è che ti dà fastidio? Come la Duna. Ma che cos'è che ti ha dato fastidio? Non ho capito. Come la Duna. Ma che uno fa un po' quello che gli pare. Come la Duna. Vabbè, poi... era un aborto, poi sì, lo so. Poi volevo dire... che lui le pippe se le deve fare per forza, perché con la pancia che c'ha probabilmente non ci arriva a mettere l'uccello dentro al buco. Ma lei veramente, tu dici che o si fa le pippe oppure niente, no? Oppure niente. non riuscendo a trombare. Lui le pippe se le deve fare per forza. Poi ancora? Poi volevo dire che tutti ci si fa le pippe, perché chiaramente il primo amore non si scorda mai, però lui è costretto, diciamo, a farsi le pippe. Poi ancora? Basta, hai finito le tue contumelle su Ferrara? Bene, ottimo. Sì. Marco da Mantova, vai Marco. Buonasera Cruciani, Parenzo non lo saluto perché mi sta sul cazzo proprio. Ma che vuol dire? Bene. Se ti sta sul cazzo non lo puoi salutare lo stesso? Io invece questo lo capisco, lo apprezzo, perché farei lo stesso io. Che simpatico, antipatico, lui mi è antipatico. No, ma io su questo, sì, guarda, su questo... Comunque domani vado a comprare le mutande di Dolce Gabbana. Domani non le ho mai avute, domani le vado a comprare, perché mi sembra quasi che i gay, cioè essere gay oggi, sia diventato come i fondamentalisti islamici, cioè o è così, cioè proprio non hanno i paraocchi. Uno non può pensare diversamente, c'è libertà di pensiero. Sì, d'accordo, ma infatti io credo che nel mondo gay non è che la debbano pensare tutti allo stesso modo, ci sono i gay che la pensano in un modo... Miseria. Cioè, allora, qua siamo diventati alle cose più assurde. E dunque assurde, tu vai, cioè, a comprarti le mutande perché senti, certo, c'è chi paone che... avuto, vado a comprare, proprio in segno di solidarietà, perché non si può mica. Cioè, va bene, qua, Marco, ho capito. Ma perché ti sta sul cazzo Parenzo? Non ho capito. perché non penso niente come lui, proprio. Vabbè, ho capito, però, ma non è che se uno la pensa non salutare. Ma no, perché, no, sei d'accordo? Che vuol dire sei d'accordo? No, ma se... su questo, no, lo condivido, perché ad esempio anch'io non saluterei mai Fiore, sono d'accordo. No, ma invece io sono d'accordo che non saluteresti Fiore, ma che cazzo vuol dire non saluterei? Che me ne frega a me. Ma io stringo la mano a tutti, ma qual è il problema? Io ho un fascista, neofascista. Ma smettila con ste cazzate, sei diventato intollerante adesso, prima non eri così e stringevi le mani a tutti. Sei impazzito improvvisamente per accreditarti parte, ma sono d'accordo sul fatto di non salutare uno che ti non sta salutando. Non capisco perché non devi salutare uno come Fiore, uno di Forza Nuova, chi se ne frega. Lazzaro da Brescia lo saluto e poi lo contesto, lo mando a fare in culo, ma lo saluto. Che cazzo vuol dire non salutarlo? Non e non lo salutare, lo consideri non lo consideri nemmeno un uomo tu, cioè pensa te come stai, cioè Lazzaro da Brescia, non lo consideri nemmeno un essere umano, cioè no, su, ma sei pazzo. Lazzaro, con tutti gli stalinisti che hai incontrato nella tua vita, hanno assassinato mille persone, il mio, il mio umile saluto. Ma allora ci sarebbe una lista infinita allora da questo punto di vista. Dai, lista, su, faccio la selezione. Ma dai, su, Lazzar Brescia, fai una divisione tutti tra i fascisti e i comunisti che è intollerabile. Lazzar Brescia, dai. Dipende. Allora, sicuramente. Buonasera. No, i comunisti ti stanno più o meno simpatici, anche quelli che sono un po' ancora rimasti stalinisti. Così ti stanno ancora un po' simpatici. Invece quelli che sono fascisti ti stanno sulle palle. Ma io giudico le persone, dopodiché Lazzar, vai. Okay. Che devi fare? Ognuno ha le sue malattie. Che devi fare? Vai. Un grande saluto a Parenzo, a Cruciani, niente, zero, cazzo, niente proprio. Vabbè. Ascolta, sei troppo arrogante. Me ne farò una ragione. Ma vedi, ma è legittimo, bene, bene. Allora, ascolta, mi ascolti o no? Sto parlando, altrimenti mi metto la linea giù. Parla, amico mio. Okay. Che ti devo dire? Parla. Cruciani, sei troppo arrogante, cazzo. Esprimiti. Ok. Sei troppo arrogante e sei presuntuoso e sei veramente affidabile, cazzo. Ma sai che non me l'aveva detto nessuno? Fino adesso. Ah, te lo dico io che sono algerino, lo so. No, ma sono tutte radio. Ma sono tutte cose nuove, nuove che mi stai dicendo. Forse sono il primo, anche lui non lo so. No, ma sono tutte cose nuove, sai, non me lo dice mai nessuno, arrogante, eccetera, non me lo dice mai nessuno. Vabbè, ma Lazzaro, comunque la verità, devi veramente abbassarti un po' il tono, cazzo. Vabbè, tratta poi bene soprattutto vai gli ascoltatori. Sì. Ascolta, a parte è arrivato questo, lui adesso, questo, a scoprire come devo trattare gli ascoltatori. Lazzaro da Brescia, ma dai, su, ok, forza. Lazzaro da Brescia, va bene. Ascoltami, tu veramente sei messo peggio di quelli conduttori di Radio Padania, sì. Tu sei più razzista di loro, cazzo. Sono tu più razzista. Sì, tu sei sempre alla parte di quelle fascisti, quelle razzisti del cavolo che stanno sempre a rompere le scatole agli immigrati. Mm-hmm. Parlo di quelli che l'hanno, sono regolari, non parlo di quelle di quanti lasciamo stare su questi, siamo tutti contro questi. Allora tu Cruciani sei io messo veramente peggio. Ma tu che hai chiamato a fare? Scusa, spiegami, che hai chiamato a fare? Per dirti queste cose. Ti volevi sfogare un po'? Ce l'ho. Ma non perché è un non diritto o no? È un diritto o no? Ah, diritto, adesso non esageriamo. Il diritto di chiamata alla Zanzara ancora non l'hanno istituito. Forse ci sarà il diritto. Forse ci sarà il diritto di sposarsi tra gli omosessuali, ma il diritto di chiamata alla Zanzara ancora non l'hanno istituito. Non credo che ci sarà. No, non è un diritto, è una possibilità. La mia opinione, scusami. Ah, dai, su, Lazzar. Ce l'hai problemi. Signor Lazzar. Ecco l'arroganza. Eccola lì. Ma dai, fatto una bottiglia di vino, dai. Su, ce l'abbiamo già una guerra contro quelle radio. Ascoltami, no, ce l'abbiamo già la battaglia contro quelli di Radio Padania. Io, la Mauri e tu. Chi? Lui è la Mauri? Che ti stai parlando? Si parla di cose incredibili. La Mauri. Lo so, non interessano perché tu non subisci quel razzismo che subiamo noi, capito? Ma tu di dove sei? Grande Cruciani, ma di capito? Dove sei? Di dove sei tu? Sono dell'Algeria, dell'Algeria. Ci sono veramente le palle di persone come te e di quelli conduttori di Radio Padania. Prima che mi tagli la linea, un grande saluto a Parenzo. Parenzo, sei grande, ciao. Grande veramente. Ciao fratello. Siete patetici, a domani 18:30. Ciao, fratello. Ciao. Se avessi i soldi di Balotelli, costruirei un campo rom attrezzato, ad esempio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma Parenzo ama essere somatizzato dagli zingari. Radio 24. La passione si sente.